Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della guerra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22:15, vabbè, tu non senti, ma perché hai il volume basso nelle cuffie. Poi te lo alzo. Comunque, al di là dei cavoli nostri, sono le 22:15 e 25 secondi. L'ho già detto, di qualcosa vuoi dire, sei capace. Che devi dire? Niente, lanciamo la puntata. Questa è Radio Possum. Questa è il consueto appuntamento con Radio Possum. E quest'oggi parleremo di diverse cose, ma incominciamo parlando dei circhi. Abbiamo già anticipato la volta scorsa la notizia della morte del piccolo di Giraffa a Imola, e quindi vogliamo riflettere insieme anche a un etologo sui circhi, sulla condizione di sfruttamento e di derisione che vivono appunto gli animali in questi luoghi. E vogliamo subito entrare in collegamento con l'etologo? Sì, magari mandiamo prima una canzone, sì. Perché dobbiamo chiamarlo il collegamento. An ice cream sees one of them there's a part of me. And I rage some luck with them inside that cage. Allora, siamo in collegamento. Ci senti? Ci senti? No. Pronto? Pronto, ci senti? Sì, pronto. Ok. Non sento. Ci senti adesso? Pronto? Pronto? Ok, noi ti sentiamo. No, non riesco a sentire nulla, però. Ok, d'accordo, riproviamo a telefonare. Ok, siamo in diretta con Antonio, che è una delle persone che gestisce il Parco dell'Abatino, è un etologo, poi spiegheremo anche che cos'è il Parco dell'Abatino. Ci senti? Ci senti? Sì, prima sento a tratti, adesso in questo momento sento, prima non sentivo bene. Ok, d'accordo, speriamo che adesso va tutto bene. Senti, no, noi parliamo stasera, come ti avevamo anticipato, parliamo di circhi, no? Tu poi sei un etologo, volevamo anche parlare dal punto di vista tecnico, diciamo, che cosa comporta il circo, lo sfruttamento del circo per animali che sono per lo più in larga maggioranza animali selvatici. Da un punto di vista etologico, per l'animale, adesso al di là della differenziazione di specie e tutto quanto, la detenzione in un circo, lo stress di uno spettacolo, dei trasporti, spesso trasporti all'interno di strutture piuttosto anguste, piccole, inadatte ai bisogni di questi animali. Non riesco a sentire adesso. Pronto? Pronto, ci senti? No, a un certo punto la voce va via. Riproviamo adesso a riparlare, vediamo se momento sento, poi mentre da un certo punto però la voce si allontana, non riesco. Ok, allora guarda, la faccio brevissima. Ecco, adesso in questo momento si è allontanata nuovamente la voce, quindi okay, si sente a tratti. La faccio brevissima. Per un animale che poi ha una natura selvatica, anche se poi nato in cattività, da un punto di vista etologico, la detenzione in un circo che cosa comporta a livello di sofferenze, di stress, di sviluppo di comportamenti stereotipati, anomali e via dicendo? Non riesco a rispondere perché non sento la domanda proprio, deve essere qualche problema con la linea proprio. Ok, riproviamo per la terza volta la telefonata, dai. Intanto parlo io. Mariposa che vuela junto a me, trae colores y un secreto, algo que me hace sonreír. De cerca, solo un momento. Quiero tenerte a mi lado, en tus alas y ser feliz. Puede ser que sea tan así como la gota que cae a veces y se disuelve al rozar. Ok, allora ci riproviamo, questa volta ci senti? In questo momento sento, il problema è che poi a un certo punto però mentre te parli la voce va via. Ok, dai, vediamo se funziona, se siamo proprio sfortunati questa sera. Ti volevo chiedere, da un punto di vista etologico, per un animale che è rinchiuso in una gabbia, per un animale tra l'altro che ha un'origine comunque selvatica, anche se nato all'interno di una gabbia, qual è l'impatto del circo? Che cosa comporta? Quali comportamenti anche anomali, stereotipati, autolesionistici può dar vita? Qual è insomma la sofferenza di un animale all'interno di un circo? Che sia una giraffa, un leone, una tigre e via dicendo? Giustamente hai sottolineato il fatto che stiamo parlando di animali selvatici, perché già questa distinzione è importante tra un animale selvatico e un animale domestico. L'animale selvatico chiaramente è più soggetto a avere delle situazioni di stress e andare incontro a queste situazioni, per cui per il circo, poi gran parte degli animali che vengono utilizzati sono animali selvatici. Effettivamente queste situazioni di stress dell'animale possono riscontrarsi con una certa facilità, quindi questo è un primo problema. Poi c'è un discorso generale della sofferenza dell'animale. Questo è un problema che non riguarda comunque soltanto il circo. Situazioni in cui è presente la sofferenza animale purtroppo sono diffuse in tantissime realtà, il circo può essere una di queste. Per quanto riguarda il circo, io personalmente credo che l'elemento che mi sento più di contestare al circo è la rappresentazione che dà degli animali, che è una rappresentazione secondo me fuorviante, nel senso che il più delle volte l'animale è ridicolizzato e la scimmietta che viene vestita e si muove come se fosse un pagliaccio, oppure il domatore che deve dimostrare di riuscire a dominare il leone o la tigre, insomma, ecco, il messaggio che viene fuori è un messaggio fuorviante, quindi da questo punto di vista non credo che ecco, insomma, io non mi sento assolutamente di condividere un messaggio di questo tipo, mi sembra che sia un po' fuori luogo e fuori tempo anche. Poi ci stanno delle situazioni effettivamente, tra l'altro, di spazi molte volte che non sono sufficienti, e lì probabilmente c'è anche una certa variabilità, nel senso che abbiamo situazioni più o meno gravi, situazioni che lo sono di meno, insomma, ecco, forse bisognerebbe poi per questo aspetto specifico andare a vedere circo per circo, però in linea di massima direi che certo non è una situazione in cui si può dire che gli animali stanno bene, godono, eccetera, perché se non altro il fatto che poi sono inseriti in questa sorta di spettacolo per un animale selvatico sicuramente è un forte condizionamento, e il problema direi che viene dopo, nel senso che per quando per qualche ragione poi l'animale non viene tolto dal circo perché sequestrato, perché ci sono le condizioni in cui non può stare proprio per le ragioni della sofferenza o dei maltrattamenti, lì dove si dimostra, insomma, che ci stanno, l'animale, insomma, reinserirlo in una, e qui il ruolo dei centri, il ruolo, insomma, di queste strutture di reinserimento non è facile. In genere noi ci sono arrivati animali provenienti da circhi, faccio riferimento in questo caso particolare a delle scimmie, reinserirle poi in un gruppo e quindi in qualche modo dargli quella dimensione sociale che soprattutto per gli animali sociali, quindi per una scimmia reintrodurla in un gruppo di altre scimmie è un'operazione difficilissima, il più delle volte non riesce. Ecco, io mi volevo collegare a due cose che hai detto te, no? La prima questione è quando tu hai parlato del domatore, anzi sì. No, scusami, facciamo un passo indietro e partiamo ancora da più a monte. Aspetta, senso... che adesso sento a tratti, insomma, ho capito il domatore, poi non ho seguito più la seconda domanda, non sono riuscita No, no, non era una domanda, erano due osservazioni, diciamo così. Sì. E la prima osservazione è la questione che il circo è, come tante altre, una forma di sfruttamento animale, l'allevamento, la vivisezione, la caccia, la pesca e via dicendo. Ma no, forse... ho riperso la linea però. Ok, no, vabbè, intanto è un'osservazione, cioè che comunque sia, mai come nel circo, nei delfinari, nei parchi acquatici, negli zoo anche... Dunque, la linea si è allontanata, adesso proprio non sento più nulla. Vabbè. Non lo so, ci senti ora? Sento in lontananza e a tratti. Forse proviamo a usare quest'altro microfono. Senti, no, a questo punto, vabbè, casomai l'osservazione la facciamo dopo. Parlando un attimo del posto che gestite voi, che è il Parco dell'Abatino, no? Ci vuoi parlare un po' di come nasce l'idea, di che cosa si occupa, quanti animali ospitati, in che condizioni vi arrivano, dare ovviamente anche riferimenti internet, dire dov'è questo posto, che cos'è, insomma, la sua filosofia, anche il suo lavoro quotidiano per il recupero di tutti questi animali selvatici che avete? Sì, dunque, vabbè, intanto il nostro è un, appunto, è un centro di recupero. Direi che bisogna un po' fare una distinzione, non che sia fondamentale, però insomma è bene precisare. Dunque, ci sono due, diciamo, due tipologie di assistenza a questi animali in difficoltà. Uno sono i centri di recupero, che hanno questa finalità di accogliere animali che in qualche modo, animali selvatici, che in qualche modo non è possibile mantenere l'ambiente naturale perché hanno un trauma, sofferiti, insomma, un incidente, insomma, per varie cause, e quindi la funzione del centro è quello di prendere questi animali, riuscire a risolvere il motivo per cui non possono stare nel loro ambiente naturale, se sono feriti curarli, se sono dei piccoli dei nidiaci nutrirli, insomma creare quelle condizioni per cui riescono a essere riabilitati e a quel punto è possibile procedere al rilascio nell'ambiente naturale, insomma nel loro habitat, o lo stesso se è possibile o in ogni caso in un habitat che è simile a quello di provenienza, che corrisponde un po', insomma, diciamo in qualche modo corrisponde alla nicchia ecologica dell'animale che si sta curando, di cui si sta occupando. L'altra tipologia è quella dei cosiddetti santuari, è un termine preso un po' dalla terminologia inglese, noi li potremmo tradurre come una sorta di rifugio, non lo so, insomma, ecco, non c'è un termine specifico, comunque insomma vengono conosciuti come santuari, ci stanno questi grossi santuari sono presenti, c'è il santuario africano, c'è quello americano e adesso sta costruendo questa sorta di santuario europeo. Noi facciamo parte di questa rete, una rete quindi che vede insieme varie strutture presenti in vari paesi europei, in questo momento siamo in 15, sono presenti alcuni in Inghilterra, alcuni in Francia, in Spagna, in Ungheria. Il santuario è una struttura che accoglie animali selvatici, ma che non, senza la finalità dell'eventuale poi rilascio, perché questo rilascio è impossibile, quindi in genere si tratta di animali che non fanno parte della nostra fauna, che praticamente è impossibile o sarebbe costosissimo pensare di poter reintrodurre nei loro habitat naturali, perché magari bisognerebbe pensare di portarli in Africa, di portarli in altre parti, in altre parti del mondo. Ecco, in questo caso quindi il santuario ha la funzione dell'accoglienza poi dell'animale, sapendo che poi l'animale rimane a vita nella struttura. Le due cose, il centro e il santuario, non è che siano in antitesi, insomma, la nostra struttura per esempio funziona sia da centro che da santuario. È un centro per quanto riguarda gli animali che ci porta spesso, non so, la forestale oppure i privati che ritrovano e che quindi poi rilasciamo. E il santuario perché noi accogliamo appunto molti, soprattutto scimmie per esempio, che provengono da laboratori di ricerca o animali sequestrati, per cui c'è un discorso di mantenerli poi a vita in queste strutture, quindi chiaramente le strutture devono essere abbastanza grandi, insomma, perché poi gli animali ci devono trascorrere parecchio tempo e quindi diciamo che da questo punto di vista anche i costi sono molto più alti rispetto a una struttura di centro che grosso modo presuppone un transito dell'animale, non una sua permanenza prolungata. In particolare, quanti animali avete nel centro del Parco dell'Abatino? Dunque, attualmente gli animali, intanto il numero varia chiaramente da anno in anno, in questo momento sono presenti circa, mi pare, 550 animali, di cui un 150 sono primati, sono scimmie, Poi ci stanno, vabbè, poi ci stanno tartarughe, poi vari uccelli. Ripeto, alcuni stanno qui, insomma, come casa loro definitiva. Per un'altra parte, diciamo, un terzo degli animali invece transitano, nel senso che sono gli animali che sono pronti ad essere, alcuni di questi sono già pronti a essere rilasciati nel loro ambiente naturale. Senti, qualche riferimento non abbiamo detto, cioè noi lo sappiamo dov'è, però no, magari questo non riesco a sentire adesso. Volevamo sapere qualche riferimento rispetto pronto? Volevamo sapere qualche riferimento rispetto al parco, dove si trova, quali sono i contatti, quando dunque, una persona parco, può venire a visitarlo. Si trova tra Roma e Rieti, praticamente è più vicino a Rieti che a Roma, 20 km da Rieti e a 60 km da Roma. Il parco si estende per circa 10 ettari. Ed è comunque l'indicazione del parco, le caratteristiche eccetera, uno li può prendere da internet, che praticamente il sito è www.parcoabatino.org, e lì è un po' descritta sia l'attività che facciamo, sia anche come arrivarci, la localizzazione, insomma, credo che sia, insomma, cerchiamo noi di aggiornarlo con tutti i dati. Va bene, se non hai nient'altro da aggiungere, ti ringraziamo per questo contributo e niente, buon lavoro. Io vorrei soltanto aggiungere, perché abbiamo parlato un po', io adesso sul circo purtroppo non si riusciva a prendere bene il collegamento, quindi si parlava di luoghi di sofferenza degli animali, ecco, noi abbiamo questa realtà del circo, nel senso che qualche animale ci proviene dal circo, insomma un certo numero di animali che abbiamo invece provengono dalla sperimentazione, e credo che sul piano della sofferenza, insomma, ecco, questa è una delle realtà di cui, insomma, c'è dibattito, andrebbe discusso forse di più, perché effettivamente queste scimmie che ci provengono dai laboratori di ricerca, diciamo, hanno attraversato un tunnel in cui poi, insomma, il loro reinserimento non è facile, però, insomma, parliamo di luoghi di sofferenza, insomma, molto alti, ecco. Noi abbiamo dei progetti, questi li stiamo svolgendo anche in collaborazione con la LAV, che cercano, insomma, in qualche modo l'obiettivo sarebbe quella di non in qualche modo frenare o impedire, insomma, poi ci possono essere varie forme, insomma, questa sperimentazione animale, quando parliamo soprattutto di animali che hanno una forte percezione del dolore e della sofferenza, pensate soltanto appunto alle scimmie, ma insomma a tanti altri animali. Ecco, l'obiettivo è un po' quello di fare una campagna che riduca o che sblocchi questa sperimentazione. Il nostro piccolo contributo è quello di creare delle strutture, e questo alcune le abbiamo fatte, di accoglienza per quegli animali che in qualche modo, finita la sperimentazione, in alcuni casi, pensate, si tratta di una sperimentazione non invasiva, cioè gli animali vengono sottoposti a delle prove, non so, dei vaccini, per cui l'animale praticamente alla fine della sperimentazione è come se avesse fatto un vaccino, quindi sta bene, ma viene soppresso perché i costi del mantenimento sono forse poco compatibili con quello che può essere, insomma, la logica che guida poi l'economia della determinata fabbrica, industria, impresa, che è quello che sia. Per cui, ecco, mi pare appunto che sia veramente un assurdo un abbattimento di un animale per una ragione esclusivamente economica. Noi abbiamo creato queste strutture, certo possiamo accogliere una piccola parte, perché si tratta di numeri grossi in realtà, una piccola parte di questi animali, quindi questo è un po' il progetto che in questo momento stiamo portando avanti. Tenete conto che questi animali poi non provengono solo da strutture e laboratori italiani, ma in questa rete che vi dicevo prima europea, in realtà c'è una forte richiesta di accoglienza, c'è una lunga lista di scimmie che non si sa, che rischiano di essere soppresse perché non si riesce a trovare strutture che sono disponibili ad accoglierle e poi anche a mantenerle, immaginate, con dei costi notevoli. No, certo, su questa cosa, ma ovviamente noi parlavamo di circo stasera perché era un po' una trasmissione tematica, in realtà nelle nostre trasmissioni precedenti abbiamo affrontato ogni, come dire, pezzo dello sfruttamento animale, che sia l'allevamento a scopo alimentare, la vivisezione. Adesso ho perso nuovamente la voce, non sento. La caccia, e vabbè. Vabbè, dai, ti ringraziamo per il contributo e alla prossima. Diciamo. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. E va bene, torniamo in diretta. Spero che alla radio ci sentite almeno. Sì, purtroppo sì. Una telefonata con più di un problema tecnico. No, due osservazioni, che era quella che stavamo provando a fare durante la telefonata, ma si sentiva male, quindi le abbiamo rimandate a dopo l'intervista. La prima cosa è che il circo, a differenza forse di altre forme di sfruttamento animale, dove sicuramente c'è violenza e tutto quanto, il circo in qualche modo, il circo, i delfinari, gli zoo e via dicendo, aggiunge un elemento che secondo noi, a nostro parere, è un elemento aggiuntivo, in un certo senso peggiorativo, cioè aggiunge l'elemento della derisione, della ridicolizzazione degli animali, come appunto diceva anche Antonio, delle scimmie vestite da pagliacci, degli animali che sono costretti a comportamenti naturali, tutto per il sollazzo e il divertimento delle persone. La seconda osservazione che ci è venuta in mente si riallaccia a quando a un certo punto Antonio ha parlato dei domatori con i leoni o con le tigri, no? Che appunto questo concetto proprio del domare, dell'asservire, dello schiavizzare, che è a nostro parere una prospettiva che sia antispecista, cioè che lega molto lo sfruttamento dell'animale alle varie anche forme di sfruttamento dell'uomo. In qualche modo lo riteniamo profondamente diseducativo per le persone e in particolar modo ovviamente per i bambini, che crescono con l'idea che un essere vivente, qualsiasi, che sia un animale umano o un animale non umano, possa essere asservito, possa essere domato in qualche modo. I circhi nascono, come anche nascono gli zoo, nell'Ottocento, nel Settecento, quando si andava a vedere le, come scrivono i libri dell'epoca, le bestie feroci dietro le gabbie, no? Ed era quasi come fossero, non so, dei prodotti di un altro mondo, dei prodotti alieni. All'epoca c'era, in un certo senso, c'era quasi una curiosità. Adesso non c'è neanche più questa curiosità, c'è semplicemente il gusto di vedere la sofferenza, la ridicolizzazione, lo sfruttamento e la servilizzazione di altri esseri viventi. Il circo, si parla molto di circo in questi giorni, dopo l'uccisione di un cucciolo di 4 mesi di giraffa per le strade di Forlì, che era scappato dal tendone di Imola, che era scappato dal tendone del di uno dei tanti circhi orfei, no? E un po' la giustificazione che viene data sempre da circensi è quella che loro dicono sempre: noi amiamo i nostri animali. In realtà esistono su internet una vasta documentazione, video su YouTube per esempio, di come gli animali in realtà vengono addestrati, vengono domati esclusivamente praticamente tramite la violenza. Anni fa un lavoratore di un circo, il circo Ringling Brothers Barnum & Bailey, tale Tom Ryder, che per anni aveva lavorato all'interno di questo circo, aveva preso contatto con delle associazioni animaliste per diffondere un video in cui veramente mostrava le condizioni di vita e il modo in cui gli animali vengono addestrati all'interno del circo. Tom Ryder ha poi rilasciato diverse interviste. Noi riteniamo interessante leggervene un breve estratto di un'intervista, una cosa veramente brevissima, che spiega bene che cosa sono i circhi e che cosa avviene veramente all'interno di quei tendoni. Mr. Ryder, quali sono le maggiori atrocità che ha visto di persona nei circhi? Questa è la risposta: elefanti, tigri, orsi, ogni sorta di animale colpito con sbarre di ferro, pungolato con dispositivi elettrici, costretto a vivere in spazi invivibili. È vero che gli orsi imparano a ballare sulle piastre roventi? Questo non ho elementi per dirlo. Di certo le botte sono un eccellente insegnamento. Ho visto orsi polari lavorare in Portogallo con climi insopportabili. Un episodio particolare che ricorre ancora nei suoi sogni? Sì, quello dell'elefantino Benjamin, ucciso a bastonate proprio nel circo Ringling Brothers, Barnum e Bailey. Mr. Ryder, ci sono animali che soffrono più degli altri? No, non esiste una graduatoria. Ecco, il circo, questo circo, il Ringling Brothers, che è un circo anglo-americano, anglosassone, è l'esempio più fulgido, ma questa è un po' la realtà di tutti questi circhi. Qualche anno fa un piccolo circo nella zona di Roma subì, diciamo così, una perquisizione e praticamente scappò lasciando i suoi animali, dei cammelli, abbandonati nelle campagne senza acqua né cibo. Chi vi sta parlando in questo momento gli è capitato di vedere un camion, diciamo, di un circo sequestrato con dentro dei coccodrilli tenuti in condizioni veramente atroci, cioè senza spazio, acqua sporca, ammassati uno sull'altro. Chiudo questo enorme pippone per dire soltanto una cosa che è scontata, ma è sempre meglio ribadirla: quando noi parliamo di circhi usiamo un termine per riassumere non soltanto i circhi veri e propri, ma anche per esempio i delfinari, i parchi acquatici e anche tutte quelle realtà che sfruttano gli animali acquatici, gli animali marini. Noi ne abbiamo un esempio molto triste qui vicino a Roma, a Torvaianica, dove sorge Zoo Marine. Zoo Marine, dove tra l'altro recentemente la Polverini è andata a fare non so che cosa, i tuffi in mezzo alle foche. E per chi è interessato ad approfondire il discorso, noi consigliamo un film che si chiama The Cove. È un documentario statunitense del 2009 che descrive la caccia annuale del delfino che si svolge in un parco nazionale giapponese a Taiji. Il delfino viene cacciato per le carni, però i piccoli di delfino catturati vengono poi venduti in tutti i parchi acquatici del mondo, per cui qualsiasi parco acquatico del mondo ha o delfini che sono stati strappati alla propria madre, al proprio branco da cuccioli, oppure comunque ai discendenti di quei delfini che sono stati presi, portati via, catturati e venduti. E quindi niente, insomma, non è che il parco acquatico, lo zoo marina sia tanto diverso dal circo. O l'oltremare di Riccione, che è il parco acquatico più grande d'Europa, che detiene animali. Sì, tra l'altro, vabbè, mi sembra inutile aggiungere che dopo tutto questo discorso è evidente che questi luoghi non vanno assolutamente finanziati, non bisogna andarci, anzi bisogna incentivare il non consumo, tra virgolette, di questa merce, che poi sono proprio gli animali di fatto resi oggetti. Io volevo anche ricordare che una cosa che succedeva quando andavo a scuola, ma penso che succeda tuttora, come appunto i circensi vanno all'uscita delle scuole dando biglietti gratuiti per i bambini, così educandoli alla gratuità dello sfruttamento animale e della sofferenza, e le madri, per non sentire il pianto di bambino, appunto li portano a divertirsi tra virgolette in questo modo. Quindi chi di voi anche è madre ci sta sentendo, non cedete a queste strategie commerciali e imparate a dire di no, perché per il benessere di tutti noi, diciamo, perché comunque lo sfruttamento animale comunque è un elemento educativo che anche a livello dello, che comunque adesso non mi vengono le parole, però rimanda poi allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, come ci siamo sempre detti. Quindi anche un divertimento che può essere visto da un bambino con molta ingenuità, in realtà poi sono dei semi negativi che poi si ritorcono e portano appunto nella società in cui viviamo. Proprio come dicevamo prima, no, del concetto stesso di addomesticamento, che richiama poi anche tutta una dimensione di maschilismo, del domatore di virile che addomestica, che piega la volontà di altri esseri viventi. Quindi c'è questa anche visione del machismo, del maschilismo e inevitabilmente appunto del sessismo, che insomma è quantomeno da boicottare, da combattere, da ostacolare, perché poi si riversa anche nella vita quotidiana di tutti noi. Sì, insomma, il domatore come il torero, questi emblemi di macio, che poi il cacciatore, tutti elementi maschili appunto, soggiacente c'è una dinamica sessista al di là di tutto. Canzone? Sì, cantiamo. Che ci metti? No, noi no. E ok, torniamo in onda con una carrellata di notizie dal mondo. La prima, insomma, una notizia anche internazionale: Spagna, liberate centinaia di pernici. Leggiamo il comunicato: le vivisezioni, i circhi, il latte, le pellicce, la carne, la corrida si basano tutte sulla stessa ingiustizia. La discriminazione di uno, una, individuo, individua, sulla base della sua specie. Siamo coscienti del fatto che per mettere fine a tutte queste è imprescindibile porre fine allo specismo. Ma mentre questo lento processo avanza, è importante che facciamo lo sforzo di tirar fuori dalle loro gabbie tutti gli animali che c'è possibile. Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 settembre, in un ridotto gruppo di persone ci siamo diretti verso uno dei posti dove lo specismo prende corpo, un allevamento di pernici situato nella provincia di Tolero. Così, poche settimane prima dell'inizio del periodo di caccia, abbiamo aperto dei grandi buchi in una delle gabbie voliere che compongono l'allevamento. Per continuare siamo entrati e abbiamo indirizzato le pernici verso le vie di fuga, ottenendo che più di 400 se ne volassero via libere. All'uscita del recinto abbiamo potuto sentirle nei campi adiacenti che esploravano e volavano. Questo tipo di attivismo è diretto ed efficace, qualunque persona che lo desidera può realizzarlo. Firmato Fronte di Liberazione Animale. Sì, da animali prigionieri che sono purtroppo la stragrande maggioranza, una moltitudine, a pochi fortunati animali liberati. E vogliamo segnalare che su YouTube è presente un video, chi lo vuole vedere può scrivere liberazione di tre maiali, lo pubblicheremo sul blog, credo. Esatto, anche contro il mega macello. In pratica il coordinamento contro il mega macello di Manerbio, che abbiamo intervistato in una puntata ormai un po' di mesi fa, che comunque risentiremo, ha ricevuto un video, un'investigazione diciamo, all'interno di alcuni allevamenti di maiali presenti in Lombardia, con un finale a sorpresa, cioè la liberazione di tre piccoli maiali. Ciò che testimoniano le immagini sono scene di vita quotidiana, di detenzione. Sto leggendo il testo apparso su informazione.info e diramato appunto dal coordinamento che ha ricevuto questo video anonimo. Ciò che testimoniano le immagini sono scene di vita quotidiana, di detenzione e di allevamento di animali da reddito. È la normalità, non si tratta di casi limite. Esseri viventi considerati mera merce, oggetti la cui carne alimenterà un'industria che luca sullo sfrattamento animale. Gli allevamenti sono dei luoghi di tortura e di sofferenza, dei veri lager, dei moderni campi di concentramento in cui la vita è calpestata dalla cupidigia di un sistema che dall'allevatore al consumatore azzera l'esistenza di animali senzienti, riducendoli a risorsa produttiva e merce di consumo. Il primo passo per salvare delle vite è eliminare qualsiasi prodotto di origine animale, diventando vegan. Un ulteriore modo per ridare la libertà a questi schiavi è l'azione diretta. Abbiamo visto il video è classica immagine purtroppo di qualsiasi allevamento di maiali, maiali sofferenti, feriti, agonizzanti, cuccioli di maiale morti, e poi si vedono delle persone che appunto portano via tre maialini, li chiudono dentro un trasportino da gatti, insomma, e li portano, insomma, un posto dove possono vivere finalmente liberi senza che nessuno li imprigioni, li sfrutti e li uccida. Sì, leggiamo poi una dichiarazione anonima che è comparsa su directaction.info. Allora, tradotto in italiano, leggo la traduzione in italiano. Un asinello, otto maiali e diversi conigli sono stati liberati la mattina alle 2 del 26 settembre nel paesino di Villa Rendena. È stato diverto il cancello e condotto l'asinello via per i campi, quindi trasportato in un posto sicuro. Abbiamo lasciato aperte le porte della conigliera, non c'erano gabbie, e della stanza dove erano rinchiusi i maialini. Poi abbiamo scritto con la bomboletta il messaggio "animali liberi" e più volte "Alf" sulla parete della prigione, sulle porte del cancello di divieto. Notizia da detection.info. Passiamo agli appuntamenti. Lanciamo una canzone, allora. Quale canzone? Psicosis, Torero. We'll be right back. toro que es irracional. Festeja la tortura de un pobre animal. Vendes muerte en una fiesta. Puede escapar, banderillas te clavan en su cuerpo ya cansado, tu sangre salpicando y tú lo ves. ¡Tú lo ves! Corta cerrado y oreja. ¡Torero! Yo no entiendo por qué hay que festejar. La muerte y la tortura no es arte ni cultura, se elevan los bienes que olvidar. Plaza de Hacho, recinto criminal. E passiamo adesso allo spazio degli appuntamenti che leggeremo in ordine cronologico. Il primo appuntamento è del 4 ottobre, giornata informativa contro la vivisezione università. Leggiamo dal sito di Nemesi Animale. Allora, il 4 ottobre alle ore 11.30 a Piazza Leonardo da Vinci a Milano, un tavolo e volantinaggio contro la sperimentazione animale università. Questa appunto giornata informativa segue l'opuscolo di Nemesi Animale appunto sull'investigazione sulla sperimentazione nei laboratori privati e pubblici di Milano. Leggo un piccolo estratto. Continua la campagna informativa davanti alle università scientifiche milanesi. Giovedì 4 ottobre saremo presenti ancora una volta fuori dall'università per costruire un percorso reale di cambiamento. In questo momento in cui l'attenzione sul tema è molto alta, è importante mostrare quali sono i luoghi in cui gli animali vengono effettivamente uccisi e quali sono le possibilità per un cambiamento. Gli studenti di oggi sono i cercatori di domani e raggiungere con un messaggio antispecista è importante. Altri due appuntamenti, uno che abbiamo così scoperto oggi e pensiamo sia veramente interessante, è quello che si terrà a Ravenna il 13 ottobre, manifestazione nazionale contro CMC per la terra e la libertà. Che cos'è CMC? CMC è la cooperativa muratori e cementieri. Lasciate adesso perdere il nome cooperativa che vi fa pensare a una piccola azienda, in realtà CMC è un'enorme azienda che si occupa di devastazione ambientale in tutto il mondo, tra l'altro è ovviamente coinvolta anche con la TAV in Val di Susa e via dicendo. Leggiamo sinteticamente il comunicato che è apparso anche sul sito informazione.info. La manifestazione è appuntamento alle ore 14 alla stazione dei treni di Ravenna, per adesioni infologistiche no cmc 13 ottobre @gmail.com. Il 13 ottobre si svolgerà a Ravenna una manifestazione contro CMC. In ogni parte del mondo le lobby finanziarie e politiche mafiose aggrediscono, depredano e devastano con ridicolo alibi del progresso e con la complicità degli apparati statali. Accade in Centro America, in Africa, in Asia, come qui in Italia. Da nord e sud non è possibile elencare tutti i tentativi di scempio, dalla Valle di Susa passando per il Mugello arrivando fino in Sicilia. I grandi affaristi vorrebbero depredarci dei nostri beni e del nostro modo di stare insieme, cementificando, perforando, scavando e inquinando. È un evidente violazione della democrazia i cui responsabili diretti hanno nomi come Impregilo, Eni, Todini e non ultimo CMC. La crisi globale viene usata da questi soggetti criminali per giustificare qualunque azione predatoria con la scusa del creare lavoro e sviluppo. Per questi motivi è fondamentale organizzare mobilitazioni ovunque e metterle in rete. La prima iniziativa è a Ravenna il 13 ottobre, indicando come primo obiettivo una grande manifestazione nazionale contro la cooperativa Muratori e Cimentieri, in quanto azienda appaltante del tunnel geognostico alla Maddalena di Chiomonte in Val di Susa, emblema e paradigma dei molteplici tentativi di devastazione. In gioco non ci sono solo le spartizioni legate alla TAV, ma soprattutto altre logiche decisionali e autoritarie, come il dimostrare che se il PD, Partito Democratico, che è dietro la CMC, o qualunque altro partito politico decidono qualcosa, i cittadini non devono permettersi di dissentire, di opporsi e di resistere. Insomma, per noi che come trasmissione antispecista abbiamo molto a cuore i temi anche della liberazione della terra, e in parte ne abbiamo anche parlato, per esempio parlando della questione della deforestazione in Indonesia, riteniamo che questo sia insomma un appuntamento importante e soprattutto ci auguriamo che possa essere, la scintilla un po', no, che comincia a far parlare anche in Italia di temi di come ecologia, diciamo, radicale e liberazione della terra. Il terzo appuntamento tra i tanti che scegliamo, perché queste settimane ce ne sono molti, è il solito corteo contro Arla nella visezione, diciamo solito non perché non è importante assolutamente, perché da un po' che lo riportiamo qui in radio ogni lunedì sera. Appuntamento sabato 20 ottobre 2012 a Correzzana in provincia Monza Brianza, concentramento ore 14.30 davanti al comune via De Gasperi 7, organizzato da coordinamento Fermare Grinile e Freccia 45. Arlan è una realtà industriale che alleva migliaia di animali in Italia, in Germania, in altri paesi, in Italia anche scimmie per esempio, e è una realtà tale e quale a Green Hill. Tra l'altro contro Harlan, però non alla sede di Correzzana ma alla sede di Udine, sabato c'è stata una manifestazione organizzata da una serie di persone, insomma manifestazione abbastanza nutrita, abbiamo visto dalle immagini. Va bene, mandiamo per il prossimo appuntamento, che è un appuntamento che ci... Prossimo appuntamento? Non mi sembra ci siano altri prossimi appuntamenti. Io questo sabato no, vado al mare, sabato 6 e a ottobre poi tipico vado al mare. Tipico periodo per andare al mare. Che dobbiamo fare? Niente, niente. Sentiamo un pochino che ci dice lo spottino e poi ne parliamo. Ah, mi vado a fare una bracciolata di carne sabato. Sì, Dai, sì. A Fiumicino a mangiare pesce, come si dice. L'Aumentino occupato e Radio Possum presentano. Non ci sono gabbie che tengano. Sabato 6 ottobre 2012, dalle ore 18, ci vediamo all'Aumentino occupato. Per una serata benefit antispecista. A sostegno di tutte e tutti coloro che hanno subito la repressione negli ultimi mesi. Proiezione e dibattito sullo sfruttamento animale. Cena vegan a cura di Vegan Riot. Concerto dei Livore. Dai laboratori di vivisezione agli allevamenti. Dalle carceri ai CIE, tutte le gabbie devono essere aperte. Tutte e tutti noi possiamo farlo. Non esistono serrature che non possono essere forzate. Bisogna solo trovare il grimaldello giusto. Il grimaldello giusto. Il grimaldello giusto. Il grimaldello giusto. Il grimaldello giusto. Il grimaldello giusto. E allora, quello che avete sentito era uno spottino che lancia l'iniziativa che si terrà questo sabato a Laurentino Occupato, e tra poco ne parleremo in maniera più diffusa. Comunque in breve già vi do un'anticipazione che dalle ore 18 ci sarà una così proiezione di video con a tema la liberazione animale e dibattito, probabilmente presentazione della cassa di solidarietà anticarceraria Aracnide, e poi cena a cura di Vegan Riot e concerto con Livore e No Confidence. Diciamo, visto che siamo in tema di appunto repressione e carcere, prima di parlare della repressione del carcere specifiche che ci hanno spinto a fare questa serata a Laurentino questo sabato, vogliamo parlare insomma anche di altre cose di carcere e repressione che sono successe nel mondo. E innanzitutto una notizia felice: una volta ogni tanto finalmente Costa è libero. Costa, per chi non se lo ricorda, era uno della tripletta Silvia, Billy e Costa, che vengono sempre nominati insieme perché sono stati arrestati, mentre la polizia sostiene che loro stavano portando, diciamo, dell'esplosivo per sabotare un traliccio dell'IBM, un nuovo laboratorio sulle bio e nanotecnologie. Vabbè, insomma, non stiamo a rifare tutto la sequel del processo, degli abusi che hanno subito, del carcere, eccetera, eccetera, perché ne abbiamo parlato tante volte, si trovano molte informazioni in rete, però insomma, una bella notizia, adesso sia Silvia che Billy che Costa sono tutti e tutte e tre liberi. E invece per quanto riguarda il caso dei Barkem 4, che ricordiamo è un caso di quattro persone che stanno subendo una forte repressione in Olanda, attivisti sempre per la liberazione animale, vi veniamo a leggere quello che è la loro dichiarazione al tribunale. Queste parole sono per ognuno di noi che si è mai sentito impotente contro un nemico mille volte più grande. Negli ultimi anni la repressione contro ogni lotta per la liberazione è aumentata. In paesi diversi l'attenzione dell'autorità si è concentrata sui movimenti diversi, ma la sostanza rimane la stessa. Stato e governi proteggono gli sfruttatori, non gli sfruttati. Proteggono gli oppressori, non le vittime. Proteggono coloro che violentano, uccidono e schiavizzano, non coloro che mettono in discussione l'esistenza stessa delle gabbie. Per far questo si stanno usando nuove leggi, unità speciali della polizia, un numero maggiore di migliorate tecniche di sorveglianza. In questo recente caso contro il Movimento di Liberazione Animale, quelli e quelle che scrivono sono stati accusati e accusate di un presunto crimine, aver liberato quasi 5.000 visoni dalle loro gabbie, dove avrebbero vissuto una vita di paura, angoscia ed isolamento, prima di essere uccisi per divenire capporti di pelliccia, in un allevamento nel villaggio olandese di Barkem. Per questo motivo saremo processati e processate il 25 e il 27 settembre in Olanda. Non spenderemo altre parole su questo evento specifico, considerando che il processo deve ancora svolgersi, ma vorremmo offrire il nostro punto di vista al movimento su ciò che la repressione sta facendo, su quello che la repressione significa veramente per noi. La repressione deve essere affrontata con consapevolezza. Bisogna in un certo modo sapersela aspettare. Dobbiamo essere preparati e preparate, pronte ad accettare le conseguenze del voler mettere in discussione lo stato attuale delle cose. Senza questa consapevolezza ci accingiamo a vivere la nostra vita nella paura e non essere in grado di portare avanti le lotte in modo efficace. La repressione nasce come risposta ad una lotta efficace. Ogni azione comporta una reazione. È per questo che i governi e la polizia intervengono per fermarci, perché stiamo trovando metodi che funzionano per ottenere dei risultati. Se non fossimo un'effettiva minaccia, non avrebbero fatto nulla, perché alle autorità non sarebbe importato. Dobbiamo accettare l'idea dell'esistenza della repressione, se quello che vogliamo è che questa lotta generi un reale cambiamento. La repressione ed il costruire di un cambiamento effettivo sono fondamentalmente due facce della stessa medaglia. La peggior reazione che possiamo avere di fronte alle repressioni è di timore. Questo è quello che dà alla repressione il suo potere. Siamo noi come movimento che possiamo scegliere in che modo reagire davanti alla repressione e decidere se vogliamo che influenzi il nostro agire o meno. Continuare le campagne che cercano fermare è il modo migliore in assoluto per sfidare e combattere la repressione, rispondere in maniera più forte, migliore, più organizzata e con maggiore preparazione. Prendere in considerazione che la repressione esiste significa diminuire l'impatto sulle nostre vite quando colpisce, imparare gli uni dagli errori degli altri per potenziare le nostre strategie. In caso contrario, daremo alle autorità repressive un modello che può essere utilizzato per calpestare qualsiasi altro tipo di dissenso in qualsiasi altro movimento. Questo è il loro modo di lavorare. Colpiscono uno o una di noi per insegnare a mille. Questo è l'obiettivo stesso di arresti e perquisizioni, di isolamento e prigionia. È la loro migliore arma: instillare la paura nelle nostre teste per renderci innocui e innocue, per farci tacere. Per questo motivo, mentre ci troviamo di fronte a questo processo, ci piacerebbe ricordare a tutti che anche noi abbiamo un'arma. Si tratta di un'arma più forte della loro, perché è costruita su compassione e rabbia. È basata sulla dedizione e la sincerità di persone che condividono lo stesso senso di urgenza. Si chiama solidarietà. Solidarietà significa sostenersi a vicenda nei momenti di bisogno, ma anche rispondere agli attacchi, non lasciare che la paura conquisti le nostre vite o fermi la nostra capacità di essere efficaci. Significa costituire insieme un movimento realmente unito, con tutte le nostre forze, competenze e abilità, ed unirci in un nostro obiettivo comune, porre fine allo sfruttamento spietato nei nostri compagni e compagne esseri viventi del pianeta che ci ospita tutti e tutte. La solidarietà è la chiave per mantenere viva questa lotta, per creare un movimento che non saranno mai in grado di distruggere, perché nessuno è libero fino a quando tutti e tutte sono liberi. Alcuni imputati del caso Berkem 4. Allora, altri due comunicati che volevamo leggervi, no, perché sono lunghissimi, li trovate su informazione.info, diciamo, di cui volevamo parlarne e dare qualche riferimento per chi volesse leggerli. Sono due comunicati di Giulia, anarchica prigioniera dal 13 giugno nel carcere di Rebibbia per l'operazione Ardire. Per chi vuole scriverle, Giulia Marziale, Rebibbia femminile, carcere, via Bartolo Longo 92, 00156 Roma. Ricordiamo quanto è importante scrivere a chi è in prigione e far sentire solidarietà politica o comunque in ogni caso vicinanza e solidarietà umana in ogni caso. Sono due comunicati abbastanza lunghi, molto interessanti, scritti anche in maniera molto ironica e piacevole da leggere. Ne leggiamo un estratto del primo che riteniamo un po' significativo. Se questo mondo vi fa schifo, se ripudiate guerra, sfruttamento e devastazione, se non avete mai avuto il timore di dirlo, se non avete mai abbassato la testa pensando non ci posso fare niente, se ci avete sempre messo la faccia, se avete chiara la coscienza di chi sono i responsabili delle vite terribili che conduciamo, se siete convinte che la società in cui viviamo sia lobotomizzata, se non riuscite a guardare una gabbia con indifferenza, se il cuore vi si chiude, il sangue vi pulsa, la vista si annebbia al pensiero di una donna, di un uomo o di un animale rinchiuso, beh, prima o poi, come dice una donna rinchiusa qui con me, ti devi fare la galera. E se questo mio essere, questa Giulia che sto scoprendo forte, dignitosa, ancora più ferma e convinta delle sue idee e sprezzante dell'annichilimento in cui mi ha rinchiusa, vorrebbe gettarmi, se questo mio essere loro lo vogliono etichettare come pericoloso, che costruisce bombe, che partecipa ad associazioni sovversive, magari affiliate alla Fine formale, nonostante qualunque cosa io abbia mai fatto, detto o pensato, non possa in alcun modo far pensare una mia benché minima adesione o partecipazione, volte a terrorizzare e seminare il panico tra la gente, beh, io non glielo permetto e rimando tutto al mittente. Terrorista è chi rinchiude, chi manganella e chi devasta. Sì, insomma, abbiamo letto due cose diverse dell'operazione Ardire e delle altre operazioni anti-anarchici che ci sono state quest'estate, ne abbiamo parlato parecchio. Forse un certo livello di somiglianza internazionale sulla strategia repressiva e su, diciamo, quello che si vuole attaccare, quello che si vuole colpire, cioè, questa è la ragione per cui abbiamo letto anche la lettera di un altro processo in merito a questa cosa. E vabbè, niente, quindi vi invitiamo tutte e tutti a venire appunto sabato 6 ottobre al Laurentino Occupato, dalle ore 18 appunto ci sarà proiezioni, dibattito forse, la Cassa di Solidarietà, vabbè basta, non dico più niente. Se magna, si ascolta musica e si beve. Comunque stasera siamo passati da animali prigionieri nei circhi, animali liberati, persone liberate come Costa, persone purtroppo ancora in prigione o che rischiano di finirci come gli attivisti olandesi. Insomma, abbiamo fatto una panoramica di quello veramente che è, è il mondo che ci circonda. E ci vediamo sabato o ci sentiamo lunedì per chi non può. È una minaccia. È una minaccia. So cazzi vostri, sabato. E vabbè, niente. Mi sa che abbiamo finito. Sì. Vabbè, allora come appunto, sì, ci vediamo sabato. Se volete più informazioni su quelli che sono i contatti per scrivere ai prigionieri e alle prigioniere, li trovate anche sul nostro blog ormai. E che niente. Come si chiama? radiopossum.noblogs.org. Wow. Mail come si chiama, che c'ha un nome diverso da... sì, si chiama lagazzaladra@inventati.org. E niente, allora ci risentiamo lunedì prossimo sempre dalle ore 22 e un ultimo saluto sempre a chi è privato della propria libertà personale, siano essi umani o non umani. Ciao ciao, buona serata.